Non ho niente per mano, ma le batterie a terra, con il culo sul cesso di una nuova casa, nuova vita e città. Per l'ennesima volta è così che si fa. Avere un cane, una famiglia, le ferie a luglio, guardare la vita che passa, la moda cambia e dover chiedere scusa. Luci che mi porto dietro da sempre. Avere un cane, una famiglia, le ferie.